Guarda, ha preso una da 8 in tasca al pantalone. Sta pezza è buona tutta la musica. C'ho basi lo stesso, io ho le basi. Praticamente sono le basi quelle già pronte, tu la apri, non c'è bisogno del karaoke. Cantare poi. Dico, se vuoi ti do anche quelle. Ci devi cantare sopra. Oh, praticamente come se le prendi da YouTube, ce le presenti quelle di YouTube. Quelle lì sono, ce ne sono tante. Zappa, vabbè, tu puoi essere scritta nello schermo e cante. Aspetta un attimino, Ia. Guarda un attimino, si è migliorato. È già rugrito, papà, adesso va bene a tu. Guarda, dammi una lettura di segnale, dai. Ora, ora. Adesso sta in mini bicio, vai. 3. Kappa, chi è che ha detto 1, 2, 3? 1, 2, 3. Sei 7. Che cosa? Tu sei 7 di segnale. Ah, 7. Anni Lavini. Oh, ciao. Oh, Tony. Tu sei Tony. Hola. La radio com'è? Oh, adesso va bene, cavolo. Va bene, Santiago 7, Radio 5. Parrucca. Ma non è puntato verso di me quel di Polo. No, negativo, è verso Platamona. Ah, forse non è puntato no verso di me. Ti faccio due passaggi, questo va? E questo, ora. Un po' più basso mi pare. Quindi va bene così? No, andava bene prima. Così come era prima? Appa. Un momento, la contatore, aspetta per essere qui. Prova. Adesso, c'è molto basso di segnale, sì. Allora, risalgo, vedi? Normale, perché se vai le spurie sono, è normale. Io non rabbo. anche su che frequenza ce l'hai, aspetta, non me lo dire. Dimmi solo se in UHF o VHF sei adesso. VHF. Però su 9 lo fa. Stavo ascoltando quelli del tram. 162. 62 395. Avanti! Sì, altro ci sono, dai, che non è in cucina un attimo. Sì, a capo, non c'è problema. Ehi, chi sei? Tonino sei? No. Una caccia mi sembra di Tonino, ma la già giuia. No, perché mi sta entrando in VHF, mi sta entrando il... Cioè, ma è me, Presidente. Cioè, ma roba da matti. Lo baracchino Trento mi intende. Ecco vai, anche la tua vicina. Aspetta. Boh, Luca. Speria. Sto mangiando. Appetito. Buona cena e buona digestione. Allora, partita di un Claudio! Mi sa che Claudio è andato a mangiare, un po' di problemi già anche in casa. Ma tu già ce l'hai cenato, eh? È già un'ora che ti ho cenato. Ah, ho capito. Stavi con la frequenza tu. Aspetta, adesso l'ho cambiato un po' però, già avessi seguito. 162 395. E che frequenza hai? Mi nomi VHF 162 395 162 162 395 e di tram. Adesso io l'ho toccato un po', però è la frequenza dell'undran, compreso, vai. Ehi, sì, sai lo. Appoggio in chi per me entra, ma non ammara. Eppure è un apparecchio omologato, non è apparecchio... però questa qui, la vera era, non era chissà che anda proprio... 162, 3, 37, 5, quella proprio degli autobus. Come? Ma non c'è sempre niente però. Io l'ho toccato un po'. Ecco, 100. Quella dei cosi è 162, 37, 5. Quella proprio quella che è. Io l'avevo un pochettino spostato perché mi entrava questa cosa. Sì, ma quando vuoi trasmettere cade la linea. No, praticamente quando va a trasmettere il portatile comincia a... Non merito la frequenza di prima. No. Fa così. Chi è quello basso? Anto? Non lo so, o è Antonio Grode. E cosa lo sta trasmettendo? Cappa. Tu sei? No, negativo. No, non è lui, no. E questo chi è? Chi ha detto negativo? Antonio è. E dopo lo trasmette? Sono a Via d'Italia, dai, di quella zona lì. È basso. Perché c'è un antennino, c'ha. Capito. Antonio? Dimmi tutto. Non tu, l'altro uno Via d'Italia. Sì, vieni avanti, mi hai sentito. Mi ascolti bene a me? Qua arrivi Santiago 7, radio 4-5, dai. Non ho capito tu. Hai capito, non hai copiato? Ha detto Santiago 7, la radio è 4-5, cioè, Santiago 7, radio 5, ha detto. Siete sovramodulati, Santiago 7, radio 5, confermo. Santiago 7, radio 5, ha detto che gli arrivo, i toni. Mettiamo sulla radio, vai, segnale relativo, vai. Anche solo una bella posizione, una bella antenna, però... Lucio, l'antennina giustamente. L'importante è che mi ascolta. sentito con la preghiera? A 380. Dimmi una cosa, ma da che zona sta modulando? Se, non, se nel caso non mi copi, Ponte Antonio. No, io sono fuori Sassari, zona San Camillo. Ah, no, arrivi bene, arrivi bene. Lo so, per Sassari sono aperto, sono in alto. Devo sollevare ancora l'antenna, però, altri due metri, e così diventano 8. A voglia che arrivi qua, a voglia. Mi difendo, dai. Otto, ripeti, 162.375 hai detto. Ah sì, è intorno a quella cifra. Così è. Sì. Aspetta. Dimmi quando parlano, perché non li sto copiando? 162.375, sì. Vai, 446.081. Sì. Vado lì su PMR. Carpa. È già fatto. Attenzione ai 10, c'è nessuno. Tu? No, tu, ma dove sei qua ora? Ah, sono qualcosa, sono, era in PMR, vero? Prova a parlare perché ti sento in PMR. Aspetta, vai. Ho già. Ehi, dimmi. Ti sta richiamando? E io ti ho chiamato, ma non ti sento. Evidentemente non. Cavolo, cosa mi arrivava forte? Da San Camillo. Come si chiama? Faccio, non mi viene. Tonino, mi arrivava forte qua. Sì, ma io sono un'altra parte. Non lo so perché, ma non mi sento. Non lo so. Sono nel mezzo negativo per andare dalla parte tua, non lo so come cosa. Hai sentito che ti ho chiamato il PMR? No, aspetta che lo spento, un attimino. Vai. Nulla, non mi senti. Niente. Qua. Ha detto già, mi senti, mi senti? No, non arrivi nulla, nemmeno la luce mi fai accendere. Di solito quando i segnali sono deboli, fa tutto, si accende e si spegne. Nemmeno quello. No, da me sì. Poco a poco a poco. Dovrei aprire il lucernaio e salire su, allora forse già va. La mia, mamma mia, mi avvento. È meglio qua, già me lo dice. E qua, qua sente sì. Cavolo, cavolo, perché ho acceso, c'aveva cominciato a entrarmi tutte le interferenze. Con quella frequenza là, cavolo. E via, droga di grave. Mi sto mandando messaggi della buonanotte. Cappa. Attendo la c'è parecchio, vedi, adesso guarda un po' qui senza parlando. Oia. Ma a Mazzano mi devi scendere un becchizzo, vai, non a Mara, devo andare a caricare presto. Dove devi scendere? A Portotto? No, all'Utrainito devo scendere. Cosa fai? Carico di popò della macchina e poi le scarichi in deposito, tu le telecchini, insomma. No, le scarico in deposito, un po'. Cazzo, la macchina anda in attesa, oh, scarico un po', se no non va bene, carica. E beh, certo. Appaga, appa. No, no, no, già, no. Non sei buono, non andrà bene, no. Cosa? Non ti ho capito. Non va bene la macchina troppo carica. Non so qualcosa io. Caricava 10 pedali, se volevo 40, 10 pedali. Poi magari un carico era tutto da una parte, che non mi scaricarlo, che dall'altra parte rimaneva più dolore. M40, ma potevi usare quel camion tu? Certo. M40 non ce l'aveva 35 quintali? No, 25 mi pare. Ma comunque lo potevo usare, potevo guidare la B. Ah sì, no, perché ce n'era uno che mi ricordo che ci voleva la C, superava. 60. Quello non si può guidare, che ci vuole la C? 60, 100. Sì, sì. Devi prendere un'altra patente. Sì, sì, sì. E va bene. Già si dava per il figlio miei. vabbè, va. Vedo un gargo. Tutto molto, però andavano che si macchine me. Avevano una forza, non per girare lo stesso, ti ammazzavi, che non c'è lo stesso. Però va bene un po' di forza a camminare. C'era un motore forte. Un poco di difetti, va via. La treccia di massa, che a volte non faceva massa, non metteva il moto. La batteria sopra il sedile, che a volte il sedile, secondo come si muoveva, a volte si staccava, toccava. Una volta mi è scoppiata la batteria dentro la cabina. È pericoloso, è come il motocarro. Cazzo, una volta il gatto mi si è sprofondato il sedile, ha toccato il polo, il gatto scende in fumo. Ma Ghisi, cazzo, cioè, una cosa micidiale. Vabbè, quelli nuovi che aveva preso poi andavano bene. Sì, vabbè. Cominciavo dai Devi, Ducato, eccetera, eccetera. Andava tutti. Il Devi che c'avevo, quello gemello, con le rotte gemellari dietro, era una potenza. C'avevo una sterzata vicina. Erano buoni quelli. Poi l'ha cambiato con Ducato nuovo, ed era una cagata. Sarà sempre meglio dell'OM, sarà alzato. Oh, sono entrato, Credo sì, chi è? Io già. Ciao, io. Mi si è staccato il filo, infatti sentiva il... Come si chiama? La cassa esterna, là, che uso per... il baracchino, ho staccato il filo, lo spinotto, adesso glielo ho fatto. Si prende. Sempre i vecchi. Eh già, non capivo perché. Infatti ho detto, lo spinotto, ma l'ho rotto, invece no, c'è il filo staccato. È andato dove la ghisina, cosa vuoi fare? Sono 10, domani è 9, dopo domani mi arriva lo stagno, era ora. Stagno, oggi ce l'ho. L'ordine, ordinatene un bel po'. 100 grammi me l'ho ordinato. Ha voglia, quindi è pizza che va in bocchi. Tu pensa che questo qua, va bene, avevo anche da prima, Questo avevo preso a Tonino, 50 grammi. L'avevo pagato 10 euro. Quello là, 100 grammi l'ho pagato 10 euro. C'è il doppio. Sì, il doppio, sì, nel senso lo stagno. Adesso mi ho ordinato quello da 1, da 1 mm, adesso mi ordino quello da 0,8. Sta pagata. Ciao, mi sentite? Sì. Poi adesso ho cambiato il radio, dai. Ah, che è un poco infatti che c'è tanta radiatezza. Voglia, mi piglio un chilo, guarda che ti dura una vita. No, anche mezzo chilo basta. Un chilo di stagno, e vabbè, ce l'ho avuto là per fine, vivo, Se ne ho preso un bel po', ne ho preso. Ma la sassa di non si può comprare. Non so, un barattolone canto, me lo vorrei far pagare, Puggiaro. No, lascia la posta, fino a saldato. Poi grappa. Già va bene già. Auguro che va bene. Ah, grazie. E beh già, come mai? Televisore niente stasera? Non c'è nulla. Non giugana. Ho visto che c'è la partita, però mi interessa la partita. Grappa. Adio. Oggi è bu che si fa giovizzino. Ha già stato l'uscita, ha già attaccato l'impianto, Yuri. Come si può fare? Oh, si accorta nella musica, tanta guffa il suo piatto. Si accorta nel secondo è della musica. E accortende, ha detto, l'uscita. Vabbè, mi sono cominciato, ha già piazzato tutto, Yuri. Ascolta, che musica ascolta di quella musica? Sì, un po' più strana, Ti vado a subire la musica africana. No, oh, già qualche cosa di carino già c'hanno. Oh, solo che è tu canto, non se ne comprende nulla. Una matracca? Sì, allora. E cosa vuoi fare? E loro si accontentano di matraccare. Non vogliono impianti grossi, no? Una fantasia trucca. Mi stavo facendo un radio, cioè, come ha detto poco fa, non so se fagliela subito questa insulina della notte o aspettare ancora. Prima di andare a letto si fa, prima di andare a letto. Se però c'è l'altra me la fai subito e buonanotte, dovrebbe essere. Invece di fargli ne 20 ne faccio 26. Io ne faccio 35 la notte. Vabbè già, ne vuoi dire che tu... Ti si regola bene così, adesso vediamo, là. Perché come fare a 3.51 prima di cenare, a 3.31, adesso poi c'è 3.31, e mi sa che arrivo su 30. Almeno 5 aumenta. Ah, 25 allora. 30 è troppo, fai la gradazione, poi se vedi che domani non c'è, ce l'ha ancora l'altra, la fai 30 anche domani. Adesso vediamo. Ora aggabbi così, secondo quanto le fa, se supera la quantità, la fa dall'altro mondo, non è che stai attento, perché queste schermo del vostro schermo, dai. Avanti, buon buon... K, a me stavo dicendo dell'insulina con Sara, dipende poi da persona a persona, perché può essere un po' di più ma non tanto di più, magari a qualcuno molto di più ma non di meno, dipende da persona a persona pure. No, dipende sempre dalla glicemia quanto è alta, in base alla glicemia che c'hai ti fa la puntura, non è che... una persona a persona, dipende dalla glicemia che ha. Così è. Vabbè, dipende quanto è alta pure. Dipende. Perché sarà diabete? No, oh, la madre era così. Bisogna mangiare di meno, perché sennò il diabete è sempre nell'angolo. Lo so. Ti piace un sacco di cose, guarda, io cioccolati non ne mangio, ma non mi fa vedere i baffi, anche io sono un esperto. Con la crema ti piace, come a me. Ma cosa, un buffone, non è in pensione? È un buffone. Claudio, ma ci sei? Perché sta giocando? Ah, c'è buffone, la sua pezzo in mezza. Che pezzo in mezza? Ah, chi va nelle pensioni, Ma in effetti io sapevo che aveva finito. Stava giocando fuori poi, non lo so qua. Con l'Italia è finito. Con l'Italia, non lo so. Oh, Antonio, ormai ha finito lui, ormai all'età, capito? Sta giocando adesso. Sta giocando. E ha attaccato la Juve, 2-0 sta vincendo. Sta attaccando di brutto. Non lo so, sicuramente, forse stavo leggendo che va su altre squadre e poi riviene qua, usano anche vecchiaia. No, ma che non ti ritiri, ga. Con Barcellona sta giocando. Ah, col Barcellona stava giocando. Lui aveva finito con la Juventus. No, la Juve sta giocando con Barcellona, non capisco là. No, è buffone con la Juve. La Juve? Sì, l'altro. Poi è strano, eppure io mi ricordo che non c'era più. Non c'è più, ora hanno chiesto il rifugio. Vabbè, comunque ha avuto una bella carriera, tipo Del Piero, che ha avuto una bellissima carriera da calciatore. E poi Albertucci, tutti quanti quelli di quella... Albertucci, Gigi Riva, quelli hanno avuto una bella carriera. Strano cazzo con la Juve, perché io sapevo che stava giocando fuori. Ma io dico una cosa, che io se avrei chiuso col calcio, punto e basta. Anche da grande, no, non avrei più giocato. Come hanno fatto qui dentro il Facebook, hanno fatto entrare quelli che erano in pensione. Così fanno con i calciatori, quando c'è bisogno di qualcuno, dove si richiamano, che sono in pensione, per di giocare. No. Così mi dici. Se quello lì è in pensione sta giocando, cosa lo spiega? Ma è strano, dici che con la Juve, però, è giocando con la Juve. So che dall'anno scorso non gioca più lui. Ma ne va già questo apparecchio. Sto usando l'ho riacceso. 5.50 lo sto mettendo un po' in pausa. E perché? Perché voglio utilizzare più questi, qua voglio tenere più preservato, va. Anche tu, è peggio, tu la si perde, ti si guarda lì. Già l'accendo già. Ecco, appunto l'ha fatta, 25-26. Aspetta un attimo che sto a cambiare l'acqua agli olive, un attimino. Io la sto scendendo giù. Ehi, te l'ha fatto in possesso, hai perché pagare. Ma già, il 3.000 non lo stai più usando. Ma che stasera l'ho usato, non mi siete avvisati, c'è già un bacco, non mi siete avvisati. Vabbè, ne stanno mettendo tanti. Avevi sistemato pure l'alimentatore, sì? Cosa? Avevi sistemato l'alimentatore, quello che non accendeva. Sì, era il capo, No, ecco. Ok. Gioca per il vantaggio, ancora? Io ovviamente. Sai che tovo già? Allora, oltre al telefonino, no? Questo televisore. C'ho questo screen mirroring. L'ho connetto al televisore e tutto quello che apro qua dal telefono lo guardo dalla TV. Ah, io invece posso girare il canale del televisore con il mio telefono, scusate, abbassare il volume. E telecomando c'ha. Ehi, combatti. Ma questo qua, qualsiasi cosa, le foto, tutto, lo guardo tramite il televisore. Tutto, anche Facebook, tutto. E su che canale lo metto il televisore per vedere? Lo devi collegare qualche canale. No, niente, guarda, vado su screen mirroring. Mette mezzo grifata, riapre Nessi. Guardi, aspetta un attimo. Allora, qua dice screen mirroring TV Samsung LED 32. Vado qua, aspetta un attimo. Start, qua. Wireless display, vedi, mi dice qua TV Samsung. Vabbè, tu non lo vedi comunque. E dice S10 in connessione. No, ma se è connesso, cosa faccio? Da qua, ok, poi vado su Facebook, no? e mi apre tutta la pagina e metto over. E io ho anche il computer nel televisore, magari lo posso fare anche io, bisogna scaricare l'app. Se c'hai il coso, sì, devi avere l'applicazione del televisore. Io ce l'ho, te l'ho detto, ce l'ho anche i canali, tutto qua. Oh, allora, il televisore deve essere smart. È smart, mio. Tranquillo che è smart. Quello che c'ho 3D è smart. L'altro non lo so, ma quello di 3D, che è 3D. Allora, se quello è smart, devi andare su nel televisore, su sorgenti, io non mi ricordo, vabbè, qua c'ho la freccia in alto sulla destra. Su, adesso non mi ricordo, quasi. Vabbè, mi raccomando, qua, là, lasciate lì. Su, questo lo dico, che se lo vedo, non si vede, su Sorge, mi piace pronuncia, non lo pronuncia, e vabbè, su lì, e ti porta, ma adesso è messo, ah, faccio un, ah, ecco, invece anche l'orario, va, ti esce questa cosa, screen, aspetta, ragazzo, secondi c'è screen mirroring e vabbè più o meno è come io faccio con la cassa che c'ho qui, metto la musica che voglio dal telefonino ma la fa sentire nella cassa tutto volume. Oh yeah, da qualche cassa è riconosciuta ormai da tanti anni e soprattutto degli attaccanti proprio così. E come sono quanto qua non è brutto, tramite questo screen mirroring ti scaricare da Play Store. Tutte le musiche che mi piacciono, quelle che canto, che ho cantato a karaoke, me la metto e mi ricordo, mi mangiano, mentre faccio la roba. Eccomi qua, sono rientrato. Ciao, buon pomeriggio. Sono sceso giù a fare i bisogni. Hai mangiato giù, volevo essere... No. Musica, cioè minimo mi bevo una bottiglia di birra da solo. Oh yeah, meno ti bevi subito. No, non lo sto bevendo perché i calcoli, lì la GTFL è un casino. Fare il calcolo la GTFL? No, si copia. La cucina. Sì, una bottiglia di che fa li passare. No, anzi, wow, ogni tanto mi bevo poco di crema di whisky. Appena la rosmi buona, è buona, vabbè, non me l'aspettavo che fosse così buona. Ogni tanto goccettino dopo che ho finito di pranzare, oppure dopo cena, goccettino per digerire. Cosa? La pulla avevo per digerire. Ma ti hai parlato in due cose, Antu? Detto che ci vuole la bottiglia, ci vuole. No. Crema di limoncino io, invece che di whisky. L'ho comprata la vita di 3 euro e qualcosa, crema di limoncino, poco e poco. La presa? Buona, è che c'è un sacco la crema. Costa 4,50 euro. Questa 3 euro e qualcosa, crema di limoncino, ma è buona, solo che è dolce, capito? L'hai presa già. La vita lì, di qua vicino, quel riscaldo che c'è vicino a casa. Ah, sì, ho capito. Sì, costa 3 euro e qualche cosa. Ma buona mia, sì. Quella che ti ho fatto assaggiare, te lo dico. Non mi ricordo di avermela fatta assaggiare a me. Sì, il giorno che ti ho detto, però faccio il caffè, ti ho detto, no, è freddo il caffè. Io volevo un goccio di crema di limoncello, ma tu sei polimia, e te l'ho messo. Non me ne ammento di chi c'hai io. Sei svegliata, te la tanto, vieni. E la fa, io abbiamo condotto che c'è goce. Oh yeah, tutto un cocktail fai. Ah no, già, no, ci sono giorni che non bevo niente, sono bevuto se devo fare quiz, giorni prima, cioè se devo fare queste cose, ma perciò di, ui. Non devi bere, non ti rubigliare subito. Ah beh, non bevo, non è che, qualche birretta mica, che cosa così, ma non è che bevo nulla. Ehi, quando sono in giostra, allora... Gianni, guarda il telefono, quello che ho mandato. E lui, quel pennino. Quel pennino, tu adesso aspetto la risposta del messaggio e poi ti farò sapere. Ok, ah. E poi me lo fai, ti pago tutto. Quanto? 22,50 ti costa. Bene. Cazzo, ma fai 2 terabyte. A voglia, lo buoni dovunque ce n'è. Gli ho scritto salve, ma è veramente da 2 terabyte, grazie. Pendrive, USB, 2 terabyte, 188 giga, 256, pendrive, cable, okay. 2 terabyte, adesso vediamo, ma ti basta anche un 128, mi andrò, se un 256 è ancora meglio, 2 terabyte è massimo. Va bene, dai, vediamo cosa annisci, c'è tutta la risposta poi, la settimana ti porto i soldi e facciamo tutto. Scusa se mi ti interrompo, ma che pennino è? Per cosa ho già? Musica. Ah, ti mettono la musica dentro, così? Ma te è buoni tu. Tu devi comprare solo la pennina e poi ti devi mettere la musica, così? Me la mette Luca, cioè mi dà il karaoke, capito, che a me serve. Ma da papasco? Non me lo ricordo cosa è, comunque mi serve per, se succede che devo fare qualche serata me la faccio, c'ho tutto, c'ho i microfoni professionali, c'ho tutto, mi manca solo il karaoke. Hai visto già? Cioè qua per fare questo tipo di lavoro 15.000. 15.000. 15.000. 15.000 cosa? Euro? Cosa marasucci è? Ma se mi voglio portare un alimentatore piccolino, un portatile, va bene, secondo me va bene, se ho un altro paio di 5 metri di cavo, va bene se me lo porto giù. A voglia, basta mettere un commutatore, uno lo lasci lì e l'altro cavo lo mandi giù, commuti e moduli da giù. Se ci attacco provvisoriamente il coso, il rosmetro, cosa arrivate? Ora ti fa il commutatore e il rosmetro. Allora, il commutatore, ma me l'aggiunge, come che stia aggiungendo due cave? Come fai, scusa, non ho capito cosa vuoi fare. C'è presente, la stazione che fa il baracchino, metto un cavo da 5 metri, la stazione che fa il baracchino, me lo porto giù, e quella fa l'antenna, tutto lì. Ah, puoi fare anche così? Ma sì, non va, penso. No, non credo. Un alimentatorino piccolino, questo per il portatile va la grande. Qualche volta, cioè, voglio anche stare un po' giù e ascolto, faccio. Ho visto il televisore adesso 65 pollici da Troni, 370 euro, 65 pollici, un barrasone. Vabbè, se è poco è bello. Avanti già. Già io il televisore mi cambierò quello che ti ha dato a aggiustare. Quando cambieranno le digitali me lo cambio di tutto, non arrivo. E ho cambiato già quell'affare mio, adesso è vecchio il televisore, lo sto tenendo, sto tirando avanti, ma poi me lo metterò nuovo per andare a comprare decodificatore, decoder, eccetera, eccetera. E io ne ho uno con decoder incorporato, piccolino, da 4 pollici, 22 mi pare. Piccolino, là. Però sto prendendo 30 euro. Ma non è il decoder che serve a per adesso. Pensavo al 2022. ce l'ha preso, penso che ce l'ha per il nuovo sistema. Ce l'ha, quello ce l'ha. Capitato. Io che non ce l'ho tanto tempo, ce l'ho proprio 2 o 3. Sì. Se è del 2017 va bene già, altrimenti no. Ciao, mi state chiamando? Pagappa, dimmi, adesso ho spento la stufa che c'era, un po' di cagnolo di freschetto, l'accendo, ha scaldato subito, la stufa, burri da gas. Non ci credi, mica che ti mando la foto. È riscalda. Tanto si riscalda, sale il calore qua sul sale. E vabbè, un buon... Ma non ti faccio più bene, se mangia. Un auguro, mi ha fatto, gli ha fatto le bombole. Tanto, manda la foto, guarda come si è fatto. Cosa? Dico, come ti scaldi, manda la foto. Hai detto, è coraggioso. Un attimino, che figlio, un cellulare è faroioso. Tu, e vai là, non mi viene. Via, me lo devo organizzare, sì. Sono Marina. E se viene, sì. Allora. Io vai a lettere, non mi so come è andato a me. Ma cui? Il continente tante volte, è girato molto, ma a lettere non mai andato. Ah, il continente sono andato, ho fatto la visita militare, ho fatto giro con la Spezia. E boh. Io sono stato Limone, Sirmione, Gardaland, Grazie Bosnia, tutti i paesi del Vinturo, Peschiera del Garda, tutta quella zona, Verona, Venezia, sono stato un bel busto. Bevi adatte io no. Ma lo sai quando ho girato? Quando c'erano per viaggi non cost, che pagavi 25 centesimi, hanno detto quello che trovavamo il viaggio per tutto il palco, da loro di Greta al palazzo. Quando li trovavamo li mettevamo tutto il palco, tanto che se ci buttavi 25 centesimi non era niente. Però veniva, la maggior parte veniva. Beh, ti credo. C'erano persone che quando noi facevamo quei viaggi da 25 centesimi, a Pisa siamo andati per dire, con 25 centesimi, andate di tutto. E c'era una che stava viaggiando, sono andata a pagare 150 euro. Poi noi abbiamo preso il pullman per andare a Verona, da Pisa, e abbiamo pagato 20 euro, abbiamo pagato più di pullman anche di aereo, te li mangi. So. Adesso non ce n'è più, ma prima con 5 euro si andava in Spagna. E c'erano viaggi anche da 1 euro. Adesso non ce n'è più. Ma sapete che cosa lo facevano? Per bilanciare l'aereo, quando mancava una persona, per bilanciare il peso. Ehi, ehi. Adesso vediamo, dammi a organizzare. Comunque vuole 2 mesi questa offerta. Da 6.100 mi ha fatto a 5.050. E quanto tempo ci vuole? La prima volta una settimana. Provvisori, poi ritorno per mettere i definitivi. Ah, devi fare il viaggio 2 volte? Eh sì, poi sono definitivi, non sono di quelli che smonti e ti che fai la come si dice, la manutenzione. Di quelli con la caccia sono, di quelli con cemento. No, fissi già, no. Allora ci sono, adesso te lo spiego, ci sono quei fermi e poi si incementano all'inferno, oppure ci sono quelli che si avvitano, che ci sono, ho detto che per i fermi ai maschi li mettono la tette. E quello lì è un altro tipo. E quelli lì? Io ho mandato il video, mi. Dita l'ho fatta la pulizia. Ma tu ci vai dal dentista a smontarla e fare la manutenzione? Io l'ho fatto, sì. L'ho fatto e... Però io ho i fermi e ce li ho incementati. C'ho il cemento fisso. Poi lì lo tolgono, puliscono tutti i fermi, tutto quanto. Ti fanno la pulizia in terra, tutto quanto. Cosa hai fatto, un gocio? L'ho limpato da nevato. E ci metto la dentista, no? Ah, razza, Zunia, mi ha mandato il video lui. Io ho mandato il video mio, beh, come mi scaldo io. Ho già. Ora lo guardo. Via. Io che ho un cazzo, ho paura. Ma cos'è tu la roba lì? Cosa lui che stavo guardando il video, dimmi. Ma cos'è la cucina? È la cucina attesa. Te sono pazzo. E cosa fai? Vai tutto in uno, mi chiamavo la sura e muore attacchi. E dico che scalda, io ti faccio la prova qua, sali. Da poi un paio d'ore, dopo di una mezz'oretta non vi buccia. Ma è una bomba, anche che usi per cucinare. Allora, non siamo cottura, basta procurarti una di quelle stufe a parabola. Va che ti incendi, no, che dentro, ma poi è gabbugi. Già ce l'ho già, ce l'ho la stufa qua. C'ho di quelle piccoline, ecco, ma no, non fai cazzo, se no che ti incendi. Ambiente, così. È piccolo ambiente, cazzo, c'è una stufa qua, guai. Non ci puoi stare poi. Quanti metri quadri è quella casa? Ho capito. Ho detto, quanti metri quadri è? Piccola già. Abbiamo, abbiamo la cucina giù. Quanti metri quadri sarà, sab? Manco lo gioco. E gli occhi per la camera da letto, sopra il soppacco, qua. Giù supera, c'è la cucina, il bagno. E non lo so, no. Ma devi fare le scale per scendere giù e salire giù? Sì, sì. Blindata, c'ho tutti i comandi, va giù interruttore da una parte all'altra, da giù accendo la luce, poi c'è la luce di qua dentro, poi da giù accendo tutta un'altra luce, è un po' particolare, poi c'è il condizionatore giù ma non ne accendo, sennò guai, c'è il condizionatore, c'è un altro pulsante, il frigorifero c'è un altro pulsante, batto in diragga fa venire una tranco, è un po' strano. È rifatto, è una casa che è stata rifatta, rimessa a nuovo. Fa. Quindi l'hanno fatta moderna, diciamo, cose moderne, tecnologie moderne. Sì, sì, sì. È un vivere un cernaio e con un brinco è fra sopra e per l'antenna. Ha pagato. Adesso te lo dico che in casa. Sto scherzando. Ah, già ho detto. Poi entrare in fiume, no, no. A casa già non entrare in fiume, no, Bino. Ora c'è qualcosa che chiude già. Da noi con una giusta, no, che cazzo, faccio sempre un manganello, faccio. Ma stava a baseball, lì, così, Ah, in te a Gigetto, ah, in te. Sei per andare al comodino, comodino, viaggio. Capo, vieni in occhi, lo sto aspettando. Lo sto aspettando. Cazzo, lì a Luca, forse è bravo, stai. Altra che ne ne fare, che su cane. Cazzo. Altra, altro, gli dicevo, cosa è, un cinese incorciato tra un pitbull, che cosa strana. Quello c'è l'armagnetti, dai. E va. Ma ragazzi non gli ha fatto niente. L'ha leccata, tutto quanto, c'è la vita popolata, tutto quanto. Ma lui gli ha detto, non insistere, non accarezzarlo troppo, perché se non ti conosce, cazzo, ma tu li tiri. Meno male c'era quel giubbotto grosso, tu, una pita da lurare. No, oh, era in camicia, ero. Ah, in camicia? Ma non ti ha stretto. Non mi ha stretto. Hai su cane, boh, ma che cosa di strano, va? No, non è strano, è il carattere suo quello. Tu, te l'ho detto, per fare amicizia con il cane, devo donarti lui, e esco di donarti lui, se no se sei tu a farlo per primo, lui è diffidente, capito? Cavolo, non sei manco due Arezzo, quindi non posso dire Arezzo come te lo padrono. Cioè, E poi il popolaio non è mai potuto vedere, io non lo so perché tu, anche l'altro popolaio che è venuto, l'ho dovuto accarezzare per fargli fare amicizia, poi già ha fatto amicizia, l'abbiamo fatto mettere la bombola fuori, a quello di pistoli, fatto mettere la bombola fuori, e l'ho fatto entrare dentro, l'ha accarezzata, per domani se lo stava accarezzando, gli ha fatto le stesse. Ah no, raga è giunto, non è più Pizzarotti, è Ruggio adesso. Chi è venuto? Quello magro Claudio, quello magrolino, chi è venuto? Chi sono dotto? Una volta quello magro, una volta quello robusto. Ma sono in gamba, sono tranquilli. Sono tranquilli. Conosco tutti quasi. E conosco tutti quanti, l'altro non mi ammento, quell'altro che è un po' guaccio. Un periodo ve n'era uno che era guaccio, davvero. In che senso? Ma malato? Oh, si careggio era di gabbo. Poi c'è cosa? C'è lo Zusinco, beh. No, ne avevo mai durato poco da loro. Ne avevo preso uno che era guato, ma guato davvero però. E bombole, ci ho pure di prendere le bombole. Ne combinava tante, ne combinava, poi dopo l'hanno tenuto un periodo, l'hanno tenuto. Poi è subentrato un altro che è una persona in gamba, adesso già sono tranquilli tutti. Ma io ci agguaccia vero era. Vabbè. Purtroppo così. No, ma hanno sempre fatto il loro lavoro come si deve, la verità. Io a te non ti diciamo che hanno fatto i travagliati, se non ti viaggia male. Hanno fatto i travagliati. Io già travaglio, non c'è problema. Quanto ce l'ho mette la bomba? Quanto te la prendi tu? 23 l'abbiamo. 22 te la prendi, se no è 23 era l'izzino. No, 23, non lo so. Ma devi uscirci da quello che abbiamo in aula, devi venire in questa zona, è un casino. Noi la paghiamo, portata a casa a 21. Raga. Quanto? Mi casino, cazzo. Chi lo sta prendendo? Vabbè, avanti. Sì, ma qua, tu sei. Sono 2-0, vedete la Juve a Barcellona. Oggi me ne fate 3. Su sa pigliato. Oh già. Pigliato su sa già. Oh, ma ok. La Juve sta vincendo 2-0 a Barcellona. Ma forse, Sì, Amaco imparane. E prima del girone in cerchio. Sto così. Cosa c'è? Vai, 3-0, io ciuccia. Barcellona, ciuccia. Cosa il rigore? Ha voluto toccare la rimane la gatta, la smalecchiata, 3-0, io Ronaldo, vamos! Cazzo, io invece vado a forza dei rigori. Allora, pensando di rigare il rigore, infatti, è stato un quarto d'ora, poi alla fine abbiamo detto vai a vedere il VAR, è andato a vedere il VAR, e non è che è regalato, ci ha mandato un VAR. Ma carità, per carità! Vabbè, non con te non si può parlare, ringrazio, ma tu sei interista, io sono Juventino, quindi vuole dire a tua Inter. Noi siamo 23-0 a Barcellona, da voi, corretto a voi. Vai! Prese! La divisione da Ronaldo! Ce la mettono le chiappette! Come? La divisione da Ronaldo, ce la mettono le chiappette! Siamo con la Ronaldo, hanno vinto nuovi ricoletti, quindi faccia povero. Rimani interista poi, io sono Juventino ma sono sportivo, non c'è di calcio, non si può parlare, ciao. Ciao Ronaldo segna, Claribu, che cazzo chi segna? Ciao Ronaldo segna, bu. Ho detto, giorno che sei qua, Ronaldo, già siete in Serie A state andando così, mi. Non è che siete buoni chi stanno, Siete sotto a noi comunque. E non punto, una segna, sta puntando l'accento, l'aiuto, hai capito? Il campionato sta giocando, ma sta puntando l'accento, perché vincere 3-0 a Barcellona non è facile, hai capito? Le avete messo in casa una Dinamo Kiev, stai zitto, come fai a parlare? Ho detto, ci avete Ronaldo, se no non avevi fatto buscite che diciamo l'avete fatto voi. Infatti non ha segnato Ronaldo, ha segnato McKinley, non ha segnato Ronaldo di azione, Ronaldo ha segnato di rigore, quindi. Ma è Ronaldo che tiene il gioco, capito? È Ronaldo che tiene il gioco. La Ricchisinanna ci ha detto che voi siete in mezzo alla merda. Infatti avevo vinto 9 anni consecutivi di scudetti e voi non avete vinto un cazzo. Senta Ronaldo, hai vinto. Ma carità. Hai vinto. Ricchichetta. Ma faccio da te, va bene. Niente, Già rintengo gli hai nobbi, non ti preoccupare che rintengo. Infatti, domani è andato all'erta meteo. Avanti già. Gianni, per dire. Farito. Sei drummito, sei Gianni. O è andato in bagno, Gianni. Dormito, sì. Dormito si è. Ma piovendo? No, appena. Sì, sta piovendo, io ne tengo, ma giù il cernaio e non che. No, quando? No, appena. Ah, che? Okay. Sa se ci intende. Ah, sì. Sta diluviando. Io qua sento tutto, sento. Ho abbassato un po' di potenza, tanto no, non mi occorreva. Poco fa era attaccato. Come ci sono venuti i piccini, ma avrei abbattito. Giulia, e ci pongo la sveglia alle 6:30 domani a Manzano, che devo batticchito. Vabbè, dai. Siamo gli occhiali, se me li levo sì, vedo, però mi fanno male un po' gli occhi. Ecla, guarda, ci rimancano gli occhiali, io sono morto, morto. No, io da vicino non vedo niente, sono a un metro e mezzo dalla televisione, non vedo, sì, vedo, ma non distingo gli occhiali, non vedo anche gli occhiali, da lontano vedo le mosche. Gianni. Io sono lo stesso, io c'è 10-10 da lontano, da vicino non vedo un capazzino, mi si annebbia la vista, se la scopro, se metto gli occhiali vedo benissimo. Sì, da lontano anch'io, sono un faro sono, ma da vicino, Io non vedo le gru da lontano, sono cibio. Da lontano non ci mi tanto. Sì, ho gli occhiali io. Non lo so, vabbè, sono cose che possono succedere nella vita. Però il buco di qualcosa già lo vedo già. Oh, il ciccio. Chi sono già Roma Gume? Ah, io sono pure la gica io. Senta la rasura, senta. Parlate bene, parlate bene. Guardate bene che vi registrano, state attenti che vi registrano, poi vi mettono nelle chat, capito? Come se non? Eva, Claudio, se ci registrano vuol dire che abbiamo una bella voce, devi essere felice. Non me la faccio ancora, mi fa buono che mi registro, di ragazzo mi rimane un bel dedo, e faccio mangiare, cazzo, la lingua le faccio mangiare. Questa mi è nuova, Claudio, cos'è che hanno fatto? Hanno registrato che ora sono le chat. Sto registrando le voci, soprattutto la mia e anche quella di qualcuno, poi ce la mettono nelle chat, in una chat specifica, che io so di che chat si tratta, capito? E poi ce l'arrivano. Parra in culo, mette buone. Hai capito, cazzati? Lasciali fare. Tanto c'è già un qualcosa, lo so chi è, non ti preoccupare, anche perché so di che chat sto parlando. Quindi non ti preoccupare, che prima o poi me ne mangio la testa, che la metto a posto dei coglioni la testa lui. Eppure sono curioso di sapere gare che tu quadrupare. Vabbè, tanto fatichi sono faziato, ma come un gume e basta a me. Però attenzione, che se c'è, sono sempre in agguato. Se ha ciappo un gatto di ricordo che ti ha battato di capiotti, pensamente è dubbiato. Tu non ti immagini niente, non sai niente, non ce ne creerai mai, perché è un mondo completamente diverso di quello che sto parlando io, quindi a tutti i piedi, stai sereno. Vabbè, raga, rifà, tanto ci fate di chi, se non fate di altro, me. E ci sono io in prima linea, non ci sei tu. Oggi ho ascoltato una registrazione che mi hanno fatto qualche giorno fa. Lascia rifare, non ti preoccupare. Lascia rifare qua, tanto, se non fate tanto non fate niente, me. L'importante è tanto, ma Gioè di una piata a paura, una piata a paura all'altra. Mica tutti canti fanno i difetti in me. Cazzo, a me poco di curracci già, in giro. Cioè, poi alla fine vai a vedere, cazzo, c'ho Eddie tutti i miei difetti. Cosa abbia a paura all'altra. C'ho Eddie da abbia a paura, secondo che personaggio è. Ma vai, già, è balle, vai. Che carriaggio li prendi già, non so nemmeno di chi sta parlando, però un po' mi sono immaginato che possa essere là. No, non la persona, ma almeno tipo di persone che possono averlo fatto, ma chi lo sa. Io già parlo bene sempre, quindi non ho nulla da temere. Come è che vuoi parlare bene? E tu, tu non sai niente perché non te lo immagini neanche. È un altro mondo, un altro pianeta, non ti preoccupare. No, tu mi fate le sceglie mentali, già lo so io. E chi me l'ha fatto sentire lo so io, non ti preoccupare. Ok. Va bene, vai. Continuate a parlare, io mi guardo la partita e non mi interessano più questi discorsi. Che mi affisi tanto, per fine, cioè, ognuno ha i suoi difetti, pure Eddie non penso che siano da meno, si abbia in culo, sai che tutti quanti vieni i dicchi, cazzo, non abbia paura all'altro, ma vai, vai, ok, da, tutti i muzzini. Ma tu credi, c'è dove stai? No, sono qua, oh. Vabbè, tanto ho dormito un bel poco già, poco. Un po' stasera, qualche oretta. E dico Gianni, che la registrazione che ho sentito, che mi hanno fatto sentire, c'era anche la tua voce, quindi è sereno. Controllo di voce. Appunto. Ma sono passato un po' di niente. Comunque, chiamo anche io, non ti preoccupare. Sono cose mie personali. Se ti hanno registrato, sia se ti hanno, se hanno tutti noi registrato, vuol dire che loro sono acculturati. Quello è il problema, che loro sono acculturati, gli altri sono tutti imbecilli. Ah, ragazzi, acculturati, danni quattro guacce, cazzo, va. Ha già detto che ognuno vale di chi gioia. Cazzo, la capisci? Ah, tutti i miti, non è proprio così, dai. Facciamoci un questione tra amico. Luca, ripeti. Non devo andare a lavorare. Cosa? Antonio, non devo andare a lavorare, ma io dormo poco. E tra un po' chiudo perché devo andare a lavorare, ragazzi. Ma ecco alle 6:30, sono già programmata la sveglia. E via. Tu, se guardi questa partita ti metti a piangere, lezioni di calcio, la Juve, lezioni di calcio al Barcellona, lezioni di calcio, ma da sportivo, non da Juventino, lezioni di calcio. Ma dove avevamo anche imparato a fare i bagliacci, Buruchici? Chi ha mai visto la squadra del genere giocando in Champions a questi livelli? Non hanno fatto un tiro in porta, a centrocampo, in difesa, cioè una Juve strepitosa. Il telecronista che è impazzito, mai vista la Juve a questi livelli. Allucinante. E chi sta, il telecronista di Luigi Bardo, è interista a me, ma interista a voi. Però quando c'è da dargli merito, c'è da dargli merito. Però noi anche in Serie A non la sopravvalutiamo la Juve, perché va sempre, cioè io non sono juventino, no, per carità, però vanno sempre basso e poi esplodono, cioè vanno alla grande e poi non c'è da sopravvalutare mai, perché un anno era successo così, era successo.